Modena Antiquari, grazie alla sua lunga tradizione, essendo appunto arrivata alla 26ª edizione, è diventato soprattutto un punto di riferimento per il collezionismo non solo del nord Italia, ma anche per tutto il territorio. È una manifestazione che nel suo insieme è particolarmente gradita al pubblico perché non è la classica manifestazione antiquariato che propone esclusivamente l'antiquariato classico inteso come dipinti, mobili, oggetti da collezionismo, eccetera, ma ha abbinato nel corso dei suoi anni di sviluppo un salone specifico per l'antiquariato per parchi e giardini e la decorazione per parchi e giardini, quindi balaustri, cancelli e materiali di recupero per le ristrutturazioni, e uno salone specifico sulla pittura dell'Ottocento, unico in Italia, che raggruppa in sé le 25 migliori gallerie a livello nazionale, quindi per il collezionista dell'Ottocento è un appuntamento imperdibile. Ecco, è un mondo quello dell'antiquariato che sicuramente ha le sue particolarità e vive anche le sue criticità, in particolare legate magari anche a questo momento storico. Beh, le criticità sono date fondamentalmente dal trend economico, come prima indicato, non particolarmente felice. In più l'antiquariato soffre anche un pochino e delle mode sociali, spesso così determinato anche dal punto di vista dell'attenzione a determinati periodi piuttosto che a determinate tipologie di mobili, piuttosto che così determinati soggetti o scuole di pittura. È un momento, come ricordava giustamente lei, anche di crisi, di una sofferenza generalizzata all'interno, diciamo, del sistema paese, e questo si riflette anche su un mercato particolare di cui abbiamo appena evidenziato le particolarità, come quello dell'antiquariato. Però è un mercato vivo, perché comunque reagisce, prova a reagire. Siamo appena al secondo mese del 2012, cosa si intravede nel futuro? Siamo all'inizio di un anno che sarà sicuramente foriero di grandi cambiamenti, sia a livello economico che a livello del mercato artistico. Noi attendiamo per avere un'indicazione più precisa, chiaramente la fine della nostra manifestazione, che può darci un trend almeno a livello nazionale. Aspettiamo forse la più importante manifestazione mondiale a livello di antiquariato e di arte contemporanea, che è il TEFAF, che si svolgerà a marzo, appunto per avere così un'idea più precisa di quelli che potranno essere i trend. Anche se però, confrontandomi con gli espositori in questi giorni, questi primi giorni di manifestazione, durante così, i miei contatti direi quotidiani per sondare quello che è il loro gradimento e le loro aspettative, direi che comunque ci sono buone indicazioni per una ripresa, se non complessiva di quello che è il mercato dell'antiquariato, ma comunque di settori tipo la pittura, tipo la scultura, che sicuramente darà parecchie soddisfazioni, il collezionismo specifico sulle ceramiche e comunque l'approfondimento di determinate tematiche che così permetteranno investimenti che garantiranno ottime rese nel futuro. Ecco, tutto quello che è il primo Novecento, il design, l'art déco, la pittura a soggetto di paesaggio e le nature morte, sicuramente sono quelle che soffriranno meno e quelle che daranno forse sicuramente maggiori soddisfazioni.